Il soggetto della mia nuova opera è turco. Sono così felice di comporre su questo libretto che la prima aria della signora Cavalieri, che sarà Costanze, del signor Adamberger, che canterà Belmonte, e il terzetto, che chiude il primo atto, sono già terminati. Il tempo è poco, ma tutte le circostanze, tutti i progetti mi rallegrano talmente che mi precipito al tavolo con ardore e resto seduto con la più grande gioia. Credete che scriverò un'opera comique come un'opera seria? Nella serie devono esserci poche burle, molte più cose sagge e sensate. Nella buffa, al contrario, poca saggezza e molto più divertimento. Non posso farci nulla se si vuole della musica comica in un'opera seria. Qui a Vienna comunque si fa ancora una precisa differenza. In ogni caso, trovo che nella musica il buffo non sia ancora scomparso. Da questo punto di vista i francesi hanno ragione. La maggior parte dell'aria di Osmino era già composta prima che il librettista Stefani ne avesse scritta una sola parola. Vi ho fatto brillare le note gravi del signor Fischer. Il passaggio Drum by Barte des Propheten è nello stesso tempo, ma con delle note più rapide. E poiché la sua collera cresce sempre di più, l'allegro assai, quando si pensa che l'aria sia già finita, dovrà produrre l'effetto migliore in un altro tempo e tonalità. Un uomo talmente inferocito travalica ogni ordine, bisogna ogni norma, ogni limite, non si riconosce più. Dunque, bisogna che anche la musica non si riconosca più. Ma le passioni, violente o no, non devono mai esprimersi fino a far nascere il disgusto. E la musica, anche nelle circostanze più spaventose, non deve mai offendere l'orecchio, ma sempre procurare piacere. Deve sempre restare musica. Ed è così che non ho usato una tonalità estranea a fa maggiore, il tono dell'aria, neppure il tono più vicino, re minore, ma il più lontano, la minore. Vienna, 16 gennaio 1782. C'è qui un altro pianista, un italiano, si chiama Muzio Clementi. È un bravo clavicembalista, ma questo è tutto. Ha grande agilità nella mano destra e la sua forza è nei passaggi per terze. Per il resto non ha un kreutzer di sentimento e gusto, è un semplice mechanicus. L'imperatore, dopo molti complimenti reciproci, decise che doveva essere lui a iniziare. La Santa Chiesa Cattolica, disse, perché Clementi è romano. Comincia a preludiare, esegue una sonata, poi l'imperatore mi dice: «Allora, coraggio!» Preludio anch'io, suono delle variazioni. Poi la granduchessa portò delle miserevoli sonate di Paisiello. A me toccò l'allegro, a lui l'andante e il rondò. Poi, su due pianoforti, abbiamo preso e sviluppato un tema. Le sue sonate non hanno alcun passaggio degno di essere notato, salvo le seste e le ottave. Prego mia sorella di non dedicarvisi troppo, per non guastarsi la mano così calma e misurata, e per non perdere la leggerezza, l'agilità, la limpidezza. Se suona le seste e le ottave con la più grande velocità e nessuno vi riesce, neppure Clementi, otterrà soltanto un orribile martellamento. Clementi è un ciarlatano, come tutti gli italiani. Scrive un presto o anche un prestissimo e alla breve, ma poi suona allegro in quattro quarti. Lo so, l'ho ascoltato. E per i suoi bei passaggi per terze ha sudato notte e giorno a Londra. Poi non ha nient'altro, assolutamente la minima espressione, gusto e ancor meno sentimento. Nel 1780 Muzio Clementi iniziò la sua prima tournée di concerti, che lo portò dopo Parigi, Strasburgo e Monaco a Vienna, dove si misurò con Mozart in una gara di bravura che si concluse con la celebrazione dei due avversari. La sonata opera 24 numero 2 in si bemolle maggiore, di cui ascolteremo il primo tempo, fu eseguita proprio in quell'occasione. Nella seconda edizione a stampa pubblicata a Lipsia dopo il 1803, Clementi volle apporre una nota preliminare. Questa sonata e la toccata che segue sono state eseguite dall'autore davanti a Sua Altezza Reale Giuseppe II nel 1781. Mozart era presente.